falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Se oggi vedeste apparire dal nulla una macchina color argento, esattamente una DeLorean, non stupitevi, perché oggi è il 21 ottobre 2015. È una data che gli appassionati della trilogia di Ritorno al Futuro conoscono molto bene. È il giorno esatto in cui Marty McFly arriva nel futuro. Che cosa diavolo è? Un taxi, Marty! Un taxi? Ma come sarebbe? Io credevo che volassi! Precisamente! Va bene, Doc, che sta succedendo? Dove siamo? Quando siamo? Stiamo scendendo verso Hill Valley, California! Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015. 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro? Marty McFly è uno dei personaggi più famosi interpretati dal nostro protagonista di oggi. Siccome è una persona che ci ha segnalato un nostro ascoltatore, passerei la parola a lui, Alberto Balbo, della provincia di Padova. Buongiorno Alberto. Ciao Enrico, ciao. Allora, a te l'onore e l'onere di presentare il personaggio di cui parleremo oggi. Sì, allora oggi parleremo di un attore di cinema che è anche uno dei miei preferiti, che è Michael J. Fox. Perché hai voluto segnalarci questa persona? Guarda, perché di lui mi ha colpito una cosa molto importante, che nonostante la malattia che gli ha colpito già in giovane età, lui ha continuato a fare quello per cui è stato bravo a fare l'attore. Adesso anche sta aiutando, tramite la sua fondazione, chi ha il suo stesso problema. Esatto, e sei stato perfetto, spero tu non mi porti via il posto nei prossimi anni. Un abbraccio, ciao Alberto. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Grazie. Un abbraccio. Come ci ha appena detto il nostro amico Alberto Balbo da Padova, noi parleremo oggi di Michael J. Fox, un grande attore che è diventato famosissimo e che a un certo punto si è scontrato con questo colpo d'ala con un nome terribile, morbo di Parkinson. Un colpo che avrebbe schiantato chiunque, ma non lui. Anzi, per lui questa tragedia è diventata un'opportunità, una seconda vita. I look at this as a real opportunity and a privilege. Considero la mia condizione un'opportunità e un privilegio. E sono veramente felice perché ho avuto la possibilità e le risorse per dare un importante contributo alla ricerca. È difficile da spiegare. Dico sempre che è stato un dono. Un dono che ha i suoi svantaggi, ma pur sempre un dono. Ecco, vedete come le cose possono essere viste da varie prospettive. Lui dice un dono, e quindi c'è già qualcosa di eccezionale, di difficile da capire in un uomo che parla come di un dono, di un'opportunità, a proposito di una malattia terribile, così invalidante, che peraltro in genere colpisce le persone anziane, ma che nel suo caso gli arriva addosso soli 30 anni. Questa è la sintesi della storia di Michael J. Fox, che ha scoperto la malattia proprio all'apice del suo successo mentre girava uno dei suoi film. Un incontro con il Parkinson partito da un segnale fisico piccolo ma inquietante, lo ha raccontato lui stesso nel suo libro di qualche tempo fa dal titolo emblematico Lucky Man. Nella stanza filtrava abbastanza luce da ferirmi gli occhi serrati. Con il palmo della mano sinistra tentai di schermare quel bagliore. Un'ala di farfalla, o almeno così mi parve, mi batté contro la guancia destra. Aprì gli occhi, tenendo la mano a un paio di centimetri dal viso in modo da poterla allontanare con le dita. Fu allora che lo notai. Il dito mignolo stava tremando, si contraeva, si muoveva autonomamente. Da quanto la cosa stesse andando avanti non avrei saputo dirlo, ma ora che lo notavo ero sorpreso nello scoprire che non potevo fermarlo. They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led, Quel primo sintomo risale all'inverno del 1990 e Michael è un attore affermato grazie alla televisione e anche a una trilogia cinematografica di cui parleremo tra poco. E il suo percorso parte dal 1961, dalla provincia canadese dell'Alberta, e il suo luogo di nascita, il vero nome è Michael Andrew Fox, è nato a Edmonton il 9 giugno. Il padre è un militare delle forze armate canadesi e il suo lavoro costringe la famiglia a continui spostamenti da una parte all'altra del Canada. Michael cresce in quei quartieri destinati alle famiglie dei militari, si conoscono tutti, è una specie di comunità ristretta da quelle casette, tra quelle casette ordinate tutte uguali. Insomma, chiunque conosce Michael, perché è un bambino vivace, parla sempre, ha una simpatia innata, è ironico, ipercinetico. La sua famiglia intanto si stabilisce definitivamente in un sobborgo di Vancouver nel 1971, quando il padre di Michael va in pensione. E così Michael ha la possibilità di diventare stanziale, ha il suo liceo e lì fa le prime esperienze di recitazione. Lui ha una faccia strana, una faccia da ragazzino, è più basso della media, eppure questa faccia, malgrado gli sfottò dei coetanei, si rivelerà la prima arma vincente della sua carriera. A 15 anni, quando partecipa al provino per il ruolo di un dodicenne in una sitcom per il canale canadese CBC, il titolo è Leo and Me, è la sua strada, lo capiscono anche i genitori, che in quei casi sperano per il figlio in un mestiere più solido, ma Michael è proprio bravo e quindi lo lasciano fare. Anzi, 3 anni dopo, quando decide di lasciare la scuola per fare l'attore a tempo pieno, lo appoggiano, il padre addirittura lo accompagna a sue spese a Hollywood in cerca di un agente. Mio padre mi accompagnò in California. Io gli avevo detto: mi piacerebbe provare in California. E lui mi rispose: bene, è tutta tua. Spero che tu possa trovare un agente. Il resto dipende tutto da te. La mia abilità speciale era che sembravo più giovane di quello che ero. E grazie a questo la produzione poteva risparmiare un sacco di soldi e di tempo, risparmiandosi anche così tante ore di lavoro con i bambini attori. E quei colloqui vanno bene. Michael trova più di un agente. Arrivano le prime proposte. La carriera inizia dalla patria del sogno cinematografico, Hollywood. Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged. Once a woman like the earth I gave. Il falco e il gabbiano. Così il volo di Michael J. Fox, icona del cinema e della TV degli anni Ottanta, viene bruscamente interrotto da una diagnosi terribile: morbo di Parkinson, una forma rarissima, precoce, che gli hanno diagnosticato quando aveva solo 30 anni ed era in vetta, nel pieno del successo. Ebbene, lui è riuscito a riprendere il suo volo in una diversa direzione, con un colpo d'ala formidabile. L'abbiamo lasciato a Hollywood, accompagnato dal padre in cerca di un agente, e lui trova subito proposte interessanti. Un film non memorabile si chiama Midnight Madness nel 1980, un altro nell'82, Class of 1984, e comparsate in televisione diversi spot, perché in America gli spot sono un'aggiunta, insomma, e non un limite, uno di quali addirittura per la McDonald's. Lavora, è sempre senza un dollaro in tasca, ma tutto sta per accadere, in arrivo la grande occasione, non dal cinema ma dalla televisione. I bet we've been together for a million years. And I bet we'll be together for a million more. Perché Michael fa un provino per una nuova sitcom che si chiama Family Ties, in Italia arriverà come Casa Keaton, avrà un grande successo. L'ideatore della serie, che si chiama Gary David Goldberg, non lo vuole inizialmente nel cast perché ha già rovinato un altro ragazzo, Matthew Broderick, lo ritiene perfetto per il ruolo del figlio adolescente. Broderick rifiuta, Michael, che non ha un telefono e deve condurre la trattativa da una cabina pubblica, viene preso, è l'inizio del successo, inaspettato, decretato direttamente dal pubblico. Sentiamo proprio Goldberg. Quando creai Family Ties, il personaggio di Michael, Alex Keaton, non era assolutamente il protagonista principale, dal momento che tutto doveva incentrarsi sui genitori. Eppure fin dal primo momento fu chiaro che era Alex a rendere vivo lo show. La gente rispondeva ad Alex pur non sapendo nulla di lui. Quando entrava in scena potevi letteralmente sentire gli spettatori che inconsciamente si avvicinavano, mentre quando se ne andava erano tutti meno coinvolti. Take your place and see just where it fits. Be a pretty part in someone else's war. Your baby blue eyes, somebody else's wish. Equal success. Family Ties segna l'inizio dell'ascesa per Michael, vincerà per 3 anni di fila l'Emmy Award e poi un Golden Globe per il suo ruolo di Alex. È un personaggio ben scritto, è un conservatore nonostante l'età, con un poster di Nixon in camera. Ellery non mi vuole parlare. Ho provato di tutto, ho finto persino che provavo solidarietà. Non ha abboccato. Ehi, andiamo, avete delle facce tristissime. Invece dovreste saltare dalla gioia. Avete fatto la cosa giusta. No, non lo dire, no, Alex. No, voi siete i miei eroi. Voi avete cacciato i pagani dal tempio. Alleluia a voi. Non siamo dello stesso parere, Alex. Non avrai intenzione di cambiare opinione? No, papà, non lo fare. Senti, è nostro dovere impedire ai sottosviluppati di venire a fiutare le nostre donne. Il successo televisivo fa piovere offerte cinematografiche su Michael J. Fox. Siamo a metà degli anni Ottanta. Spielberg è al lavoro come produttore esecutivo su uno dei suoi progetti più fantasiosi. È la storia di un viaggio nel tempo, indietro fino agli anni 50, a bordo di un'automobile inventata da uno scienziato un po' pazzo. Insomma, il film, lo avete capito, è Il ritorno al futuro. Alla regia c'è Robert Zemeckis. Anche qui la scelta avviene in maniera un po' complessa, perché all'inizio Spielberg lo vuole, ma la produzione di casa Keaton nega il permesso. Non sarebbe possibile, dicono, registrare la sitcom e intanto girare il film. Spielberg e Zemeckis allora arruolano Eric Stoltz per il ruolo di Marty McFly. Dopo 6 settimane di riprese però si rendono conto che non funziona la cosa. Tornano alla carica per avere Fox. Insomma, si trova un compromesso. Di giorno Michael è sul set di Family Ties e di notte nel weekend in quello di Ritorno al Futuro. È una routine che dura più di 2 mesi, che lo porta a dormire 2 o 3 ore al giorno in tutto. È il periodo in cui Michael inizia anche a bere troppo. Difficile reggere quel ritmo, difficile reggere il successo, le aspettative di tutti. È un periodo a ritmi folli nel cast di Family Ties. Intanto arriva Tracy Pollan, che è un'attrice molto bella e molto giovane, che interpreta il ruolo di una ragazza di cui Alex Keaton si innamora. Come nella finzione, accade anche nella realtà. Sentiamo il ricordo di Michael. Al tempo, quando Tracy entrò nello show, io stavo lavorando a Ritorno al Futuro 1 e poi a Ritorno al Futuro 2. Al tempo ero all'apice del mio successo e non c'era nessuno che correggesse il mio comportamento, non sempre rispettoso. Insomma, ci trovammo un giorno a pranzo, sul set, e parlando le dissi una cosa molto volgare. Quando poi finimmo di girare la scena, lei venne da me e mi rimproverò dicendomi: «Nessuno mi ha mai trattata così. Non ti accorgi che sei sempre così maleducato?» Io mi dissi: «Wow, questa donna è così intelligente e divertente e ha carattere. È stata l'unica che ha avuto il coraggio di dire che il re era nudo». Insomma, dalla finzione alla realtà e viceversa. I due si fidanzano e dopo alterne vicende, esattamente come nel telefilm. I'm crazy about you, I'd give anything to be with you, I can't live without you. Okay? Gotta go, see ya. successo, denaro, amore, magari qualche problemino di troppo con l'alcol, però tutto sommato Michael J. Fox nella seconda metà degli anni 80 è in cima alla vetta. I suoi film da Ritorno al futuro a Voglia di vincere, che è un teen movie che porta al successo nonostante il film non sia un granché, lo fanno diventare una star mondiale, un vero e proprio teen idol. Gira anche Il segreto del mio successo, sembra instancabile, ma come dicevamo all'inizio, il destino lo aspetta al varco. Raccontando la storia di Michael J. Fox, uno degli attori simbolo del cinema anni 80, interprete della trilogia di Ritorno al futuro, ma soprattutto stiamo parlando del suo incontro con una malattia terribile, il morbo di Parkinson, peraltro una forma rara, precoce, che gli viene diagnosticata appena trentenne mentre sta girando la commedia Doc Hollywood. First symptom that I got was in November of 1990. Il primo sintomo risale al novembre del 1990, quando notai un tremore incontrollabile a un mignolo e problemi alla spalla e al braccio sinistro. Andai dal medico del set, che mi disse che non era niente di grave, forse avevo preso una botta al gomito. Allora non ci feci più caso. Insomma, ero sempre stato uno molto attivo e sportivo, ero abituato a botte e infortuni. Ma quel sintomo non sparisce. Anzi, durante una vacanza, mentre sta facendo jogging, si accorge che tutto il lato sinistro del corpo non risponde. Fa una visita neurologica e la diagnosi è secca. Morbo di Parkinson, una malattia degenerativa della corteccia cerebrale, incurabile e invalidante. Lui tra l'altro ha da poco girato un film drammatico, Vittime di guerra, di Brian De Palma, un film che è andato anche male al botteghino. Però la sua preoccupazione per la carriera ovviamente viene accantonata. Reagisce alla diagnosi terribile con la moglie Tracy al fianco. Reagisce decidendo di tenere nascosta la notizia della malattia finché gli sarà possibile. Anche perché i medici gli hanno detto che i sintomi si aggraveranno nell'arco di alcuni anni. Lui non vuole perdere neanche un momento. Si butta nel lavoro ancora più di prima. Così nel 96 gira il film Sospesi nel tempo con un giovane Peter Jackson alla regia e con alla produzione sempre il duo Spielberg-Zemeckis. In quell'anno torna alla televisione con una serie che gli regalerà altre soddisfazioni. Interpreta il ruolo da protagonista del vice sindaco di New York. Vincerà 3 Golden Globe, però recitare è sempre più faticoso, soprattutto è difficile nascondere la sua condizione, per un po' ci riesce. Sentiamo Barry Bostwick, che è il coprotagonista in Spin City. Sai, noi lavoravamo con lui dalle 8 alle 10 ore al giorno, percepimmo che c'erano dei problemi, ma lui ci spiegò che aveva il batterio di Lyme e anche qualcos'altro, insomma ci nascose la cosa raccontandoci una bella storiella. E sai, è un bravo attore. You say what you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the rain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I give you everything I've got, my little piece of mind. I give you everything I've got, my little piece of mind. I give you everything I've got, my little piece of mind. Michael cerca di resistere, cerca di continuare a lavorare, però i ritmi del set sono troppo duri per una persona con la sua malattia, i sintomi stanno peggiorando, così decide di dire basta, di smettere di fingere, è il 1998. Michael J. Fox, uno degli attori più amati d'America, ha deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro il morbo di Parkinson, con cui combatte dal 1991. La malattia naturalmente procede, le condizioni peggiorano, decide di prendere dei rischi enormi, si sottopone a un intervento chirurgico sperimentale che serve a limitare i tremori incontrollati, però il risvolto della medaglia è che c'è il rischio che l'operazione vada male, che lui resti menomato gravemente. Non succede, però gli effetti dell'intervento sono limitati. Per Michael lavorare diventa veramente troppo faticoso. Sentiamo l'ideatore di Spin City, Gary Goldman. Ovviamente tutta la pianificazione della produzione dovette cambiare. Si poteva lavorare letteralmente quando Michael era in grado di farlo, e quando non ci riusciva non c'era modo di farlo lavorare. Sarebbe stato crudele, inumano costringerlo in quelle condizioni. Michael è un vero professionista e fu molto doloroso vederlo in preda a qualcosa che andava al di là del suo controllo. È il 2000 quando Michael J. Fox è costretto ad annunciare il ritiro da Spin City e a ritirarsi anche dal suo lavoro di attore. Alla premiazione dei Golden Globe, dove vince di nuovo come miglior attore protagonista, scherza sulla situazione e sulla sua decisione di lasciare la fortunata serie TV. È una notte speciale perché tutto il cast della serie è qui. Ragazzi, vi voglio bene e sono contento che siate qui stasera. Chi lo sa, magari sarete qui anche il prossimo anno. Io no, di certo. Resterò in contatto. Grazie. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say. Michael si ritira dalle scene e vuole stare di più con la sua famiglia e crea una fondazione per la ricerca sul Parkinson. Ecco il grande colpo d'ala. In tanti si aspettano un lento declino, una scomparsa triste dalla scena pubblica. Fox li stupisce e perché trova nuove energie proprio nel suo impegno contro la malattia. Vuole usare tutta la sua visibilità, il suo carisma, perché vuole raccogliere fondi per la ricerca, per spingere il Congresso verso legislazioni favorevoli alla causa, e vuole sensibilizzare il pubblico nei confronti del morbo di Parkinson. Ho abbandonato Spin City per un nuovo lavoro, trovare una cura per il morbo di Parkinson. La mia vita non inizierà quando finirà questa lotta. La mia vita non è in sospeso in attesa che venga trovata una cura. Io non sono questo. La mia vita è ciò che sono adesso. Dal 2000 in poi, Michael sorprende ancora tutti. A dispetto della propria condizione, continua a lavorare. Ha un altro ritmo, su progetti specifici, ma non si ferma. Doppia il personaggio di Stuart Little nel film d'animazione. Torna al doppiaggio anche in Atlantis della Disney. Si permette anche apparizioni speciali per alcuni episodi in serie TV recenti, come Boston Legal e la sitcom Scrubs. In anni recenti, nel 2010, entra nel cast regolare della serie The Good Wife. Interpreta un personaggio affetto da discinesia tardiva, di cui Michael soffre davvero come effetto collaterale dei farmaci che assume contro il Parkinson. Addirittura nel 2013 le sue condizioni di salute migliorano ulteriormente. Torna protagonista di una serie TV, il Michael J. Fox Show. Il Michael J. Fox Show è la storia di una persona che soffre di Parkinson. Posso ricoprire qualunque ruolo purché il personaggio abbia il Parkinson. Quindi, per facilitare il racconto delle mie esperienze, interpreto un personaggio pubblico. Un giornalista televisivo che, entrato in pensione 5 anni prima, torna a lavorare per la gioia della famiglia, che pur di non averlo in casa, lo incoraggia a tornare dal suo ex capo che gli chiede di tornare da lui. Quindi torna a lavorare. In qualche modo questa storia rappresenta la mia vera vita. È metatestuale, per usare un termine di uso comune. E molte delle storie sono tratte dalla mia vita privata. Beh, chapeau, di sicuro Michael J. Fox è un grande combattente, perché la sua vita poteva finire 15 anni fa, ma ha scelto diversamente. Tra l'altro la sua fondazione ha raccolto fino a oggi oltre 350 milioni di dollari per la ricerca. Lui stesso è diventato il volto della lotta a questa malattia. E il colpo d'ala nella vita di tante persone è un atto di volontà contro tutti e contro tutto. Nel caso di Michael J. Fox, contro una malattia terribile come il morbo di Parkinson, il suo colpo d'ala è veramente magnifico. Gli ha permesso di riprendere il volo non solo per se stesso, ma anche per tante persone che avevano bisogno di una grande immagine per essere aiutate. Beh, se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure i nostri social, i miei social, Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. They stumbled into their lives, in a vague way became man and wife. One got the other, they deserve one another.